sto baccano, che succede? È la stampa, bellezza, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Bruno Perini. E tu non ci puoi far niente, niente. Lo spettro adesso è la recessione, paura di recessione sulle borse, così titola il Sole 24 Ore stamattina. Brown, un G8 straordinario per la finanza, Banca Italia, paese in stagnazione. Dagli studi di Radio 24 un saluto da Bruno Perini, in regia con noi Carmelo Lauricella. Sì, stamane andremo un po' più rapidamente, abbiamo sentito lo speciale sulle elezioni americane e quindi però voglio segnalarvi dal Sole appunto il titolo principale: non tengono le borse mondiali, ieri di nuovo un profondo rosso sui timori crescenti di recessione. Wall Street ha chiuso con un pesantissimo meno 9,3% dello Standard & Poor's, concludendo una giornata mondiale molto negativa. Questo è il titolo principale, ma c'è Alessandro Merli che in un editoriale ci spiega una cura per l'economia reale, come dire, insomma, adesso che abbiamo affrontato la crisi finanziaria dobbiamo andare a toccare le negatività dell'economia reale. Dall'euforia di lunedì le borse sono ripiombate nei dubbi di martedì e nel pessimismo più nero di ieri. Gli annunci dei piani di salvataggio delle banche domenica in Europa e martedì negli Stati Uniti non sono bastati, come era ovvio, a normalizzare d'un colpo la situazione dei mercati finanziari, ma sembrano quantomeno aver contenuto il panico di venerdì scorso. Questo Alessandro Merli sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Sole 24 Ore, come molti giornali, riporta le parole anche di Berlusconi a proposito dei rischi di OPA ostili che potrebbero venire dai fondi sovrani, dice Berlusconi. Sì, quei fondi sovrani non solo arabi, non solo i paesi arabi, ma di molti paesi e di molti stati che hanno disponibilità liquide, hanno liquidità pronta ad acquistare aziende a poco costo. E infatti, dice Berlusconi, dovremmo mettere subito mano alle nuove regole. Il Sole 24 Ore affida invece l'editoriale sulle banche a Marco Onado. Se qualcuno un anno fa avesse ipotizzato che le banche dei principali paesi avrebbero avuto bisogno dell'intervento dello Stato nel loro capitale, sarebbe stato immediatamente portato via da due robusti giovanotti in camice bianco, dice Marco Onado. E sarà proprio Marco Onado l'ospite della trasmissione Dietro la Notizia dalle 8.30 alle 9, condotta dal direttore Gianfranco Fabi. Ecco, questo è il Sole 24 Ore, ma sulle vicende dell'economia e soprattutto sulla reazione negativa delle borse ci torna anche Massimo Giannini, vice direttore di Repubblica, un sussulto di realpolitik. L'era glaciale del capitalismo non era affatto finita e non è finita. La gelata delle borse conferma la gravità della crisi finanziaria. Chi si era illuso che bastassero il cordone sanitario di Bush e Paulson in USA e la cassetta degli attrezzi di Sarkozy e Merkel in Europa si dovrà ricredere, scrive Massimo Giannini sul quotidiano La Repubblica. Tra gli ottimismi della prima ora ha brillato Silvio Berlusconi. Il governo italiano è stato piuttosto efficiente nell'azione, ma fin troppo rassicurante nella comunicazione. I decreti a garanzia delle banche sono stati puntuali, ma i messaggi a tutela dei cittadini sono stati banali. L'esigenza di non alimentare il panico non può e non deve diventare reticenza nel dire tutta la verità all'opinione pubblica. E la verità è che in economia globale, in gravissimo affanno, l'Italia soffre e soffrirà molto più degli altri. Siamo già in recessione. L'unico che ancora non lo ammette è proprio il Presidente del Consiglio, che continua a raccontare barzellette dal pulpito di Palazzo Chigi come dal palcoscenico del Bagaglino. Questo il quotidiano La Repubblica. La Repubblica pubblica, come tanti altri, la notizia avete sentito dai GR, dal carcere, minaccia del boss Sandokan. Basta, quel Saviano deve tacere. E c'è un articolo di Giorgio Bocca sulla una battaglia di civiltà. Sempre Giuseppe D'Avanzo invece si occupa della bocciatura da parte del PD di Gaetano Pecorella per la Corte Costituzionale. Il Partito Democratico non voterà per la Corte Costituzionale. Gaetano Pecorella, già avvocato di Berlusconi e creatore di leggi ad personam favorevoli del suo eccellentissimo assistito, è una buona cosa, dice Giuseppe D'Avanzo, e sarebbe eccellente se si sciogliesse di netto il nodo che stringe solamente due questioni che stanno insieme come pere e mele, cioè la nomina della Corte Costituzionale e la vicenda Rai. Ecco, questo il quotidiano La Repubblica, ma io voglio trasferirmi sulla Stampa, perché La Stampa enfatizza una notizia che troviamo da altre parti, non troviamo però così diciamo in evidenza come sulla Stampa: dietro front sugli immigrati, linea dura con gli ultra negli stadi, 4 anni a chi colpisce un agente. Perché dietro front sugli immigrati? Secondo La Stampa, il ministro Roberto Maroni si arrende ai no di Bruxelles, niente espulsioni per i rom e la clandestinità non sarà reato, il reato di immigrazione clandestina sarà punito con una multa e non con il carcere, e i rom e i romeni che delinquono non potranno essere rimandati a casa in quanto cittadini europei. Il ministro dell'interno, il leghista Bobo Maroni, è stato costretto a un amaro dietro fronte nel corso dell'audizione al comitato Schengen. Da mesi è stretta contro gli stranieri una bandiera della Lega, ma i veti dell'Europa e la perplessità anche all'interno della maggioranza hanno, oltretutto perplessità che sono molto forti nella Chiesa, hanno portato a uno stop delle misure previste. Ecco, questa è una notizia abbastanza importante che, devo dire, è solo La Stampa enfatizza in modo così forte. Ecco, questo La Stampa poi si occupa con due commenti della riforma e la rivolta nella scuola. Antagonismo sui banchi di Marcello Sorgi, ex direttore della Stampa, e Giovanna Zincone che scrive: purché sia un ponte. E questo dal quotidiano La Stampa. Ora, mantenendo la promessa di andare rapidi, io voglio invece soffermarmi un attimo sul quotidiano Libero. Italia divisa, sì, Libero alza, diciamo, la bandiera del Nord contro i finanziamenti alle città sotto crisi del Sud. E vediamo di cosa si tratta. Il Nord rapinato, sfogo del presidente Formigoni: il governo rispetti le regole e non dia a chi ha sperperato le risorse della Lombardia. E anche il sindaco di Milano Moratti avverte Berlusconi. Formalmente non c'è un buco di bilancio, ma la appello, quei 150 milioni mancano davvero, dovevano arrivare da Roma. Che fine hanno fatto? Beh, il sindaco di Milano Letizia Moratti l'altro giorno non ci ha girato troppo attorno: ci tolgono i soldi per darli a Catania. E c'è un'intervista proprio al governatore della Lombardia Roberto Formigoni, che è molto arrabbiato, e Libero, diciamo, fa sua questa arrabbiatura. Dice: presidente Formigoni, stavolta l'hanno fatta davvero arrabbiare, ma diciamo che sono negativamente sorpreso. Tutti a dire che bisognerà smettere con la spesa pubblica improduttiva, quella che finanzia il deficit. E invece il governo regala 500 milioni di euro a Roma e 150 a Catania per colmare i rispettivi buchi di bilancio. In totale controtendenza, dice Roberto Formigoni in questa intervista ad Andrea Scaglia, con la legge delega sul federalismo fiscale, per di più approvata nella stessa seduta del Consiglio dei Ministri. E per la capitale c'è anche dell'altro, sì, perché poi sembra sempre Roma avrà a disposizione altri 500 milioni di euro all'anno a partire da 2010, ancora utilizzabili per colmare disavanzi pregressi di spesa corrente. Senza contare che alla Regione Lazio in extra deficit sanitario sono stati bloccati 3 miliardi di euro a fondo perduto, che si aggiungono ad altri 5 miliardi in prestito già concessi dal governo Prodi e ora bloccati. Una quantità di denaro impressionante. No, non torna. In che senso? Dice: faccia conto che con questo stesso decreto vengono destinati 260 milioni ai comuni per bilanciare l'eliminazione dell'ICI. Insomma, è proprio Roberto Formigoni e Letizia Moratti non ci stanno a questo trasferimento di risorse dalle regioni ricche a quelle povere, o meglio dalle regioni in attivo a quelle in deficit, e quindi Libero, diciamo così, enfatizza questa cosa. C'è Gianluigi Paragone che appunto dice evidenzia, il grande compromesso federalista rischia di scoppiare nelle mani proprio del Carroccio, che per incassare il sì del Sud, condizio sine qua non, dovrà massaggiare la pancia della sua Padania. Bossi non è nuova operazione di questo tipo e toccherà ancora a lui far digerire alle piazze il macigno, cioè il macigno di questo che viene definito il Nord. Non siamo un paese di barbari, questo è il titolo della lettera che lo scrittore Claudio Magris ha indirizzato a Silvio Berlusconi. Lettera al Premier sul caso Sarkozy e Petrella. Signor Presidente Berlusconi, non ho votato per lei né per la sua coalizione di governo, ma lei eletto democraticamente a guidare il paese è chiamato a tutelare il bene e l'onore dell'Italia e di tutti i suoi cittadini, scrive Claudio Magris, notissimo scrittore italiano. Le chiedo pertanto di esigere dal Presidente Sarkozy le formali scuse per lo schiaffo e l'offesa da lui arrecati all'Italia con le motivazioni addotte per negare l'estradizione di Marina Petrella, terrorista condannata in Italia per omicidio plurimo e latitante all'estero in Francia. Questo scrive sul Corriere della Sera Claudio Magris. Il presidente Sarkozy ha invocato le precarie condizioni di salute della signora Petrella. È certo, chiunque incensurato colpevole di reati anche gravissimi ha pieno diritto a essere curato al pari di ogni altro cittadino, perché nessuno, anche se autore di crimini, perde la dignità umana e i suoi diritti fondamentali. Dice e scrive ancora a proposito di questa vicenda Claudio Magris. Il presidente Sarkozy, negando con quei motivi l'estradizione, ha implicitamente proclamato che l'Italia non è uno Stato di diritto, bensì un paese barbarico in cui non si rispettano gli elementari diritti umani, non si curano i detenuti malati o magari li si tortura come a Guantanamo o li si giustifica come avviene ogni 3 giorni in Arabia Saudita. È un insulto al nostro paese, scrive ancora Claudio Magris in questa lettera a Silvio Berlusconi, considerato incivile, incapace di amministrare la giustizia è tribalmente dedito solo alla vendetta ed è dunque un insulto pure a chi lo governa. Non pretendo che lei sfidi a duello il presidente Sarkozy, ma insomma chieda conto di questa cosa. Certo che lei non si dimostrerà timoroso, la ringrazio per l'attenzione. Questo scrive Claudio Magris, ma sul Corriere della Sera leggiamo anche un'altra vicenda, cioè diciamo così di segno diverso. La figlia di Guido Rossa, un uomo che fu ammazzato alla BR, dice ai giudici: liberate il killer di papà, è cambiato. Sabina Rossa, figlia di Guido, ucciso dalla BR nel 1989, chiede ai giudici di liberare Vincenzo Guagliardo, killer del padre. Ora è cambiato, dice la figlia. C'è un servizio a pagina 31 del Corriere della Sera. Sabina Rossa e giudici. Si è ravveduto, la deputata del PD dice: avergli rifiutato la libertà condizionale è stata un'ingiustizia, l'ho incontrato già nel 2004, ognuno paghi il suo debito, lui l'ha fatto. Teme che si pensi che chiede perdono per tornaconto. Ho chiesto e ottenuto, dice la figlia di Guido Rossa, la libertà anche per Nicolotti, ex leader BR all'Italsider, dove lavorò papà. Questo il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera poi affida a Giovanni Sartori, politologo, invece una editoriale critico nei confronti degli economisti che non hanno saputo prevedere la crisi finanziaria. Dice: sulla pericolosissima crisi economica in corso finora non ho fiatato, aspettavo lumi dagli economisti, speravo tra l'altro che in un loro mea culpa, perché il fatto è che il grosso delle loro discipline non ha previsto la catastrofe in arrivo. Era impossibile prevederla? Balle! Non solo era prevedibilissima, ma il punto di principio è che una scienza economica che non sa prevedere è una scienza da poco, quasi da punto. Un sapere pratico che consiglia male e che prevede altrettanto male produce guai o comunque ci lascia nei guai. Dunque lo ripeto, quel che è successo era facilmente prevedibile. Io mi sono spaventato quando ho vissuto negli Stati Uniti il bombardamento delle offerte di credito facile, troppo facile. Ma ora sono gli economisti che non si sono spaventati a tempo e che devono fare l'esame di coscienza e rivedere le proprie bucce. Perché chi non sa prevedere nemmeno sa prevenire. Questo sul Corriere della Sera, a proposito della crisi, a firma di Giovanni Sartori. Altri giornali, altri quotidiani. Il Giornale: gli arabi vogliono scalare l'Italia. Qui la tesi, diciamo, che si è sintetizzata poi nei timori, nelle preoccupazioni di Berlusconi, diventa una notizia vera e propria. E poi i falsari della povertà. Vittorio Macioce si riferisce proprio ai dati sulla povertà che sono emersi sui quotidiani e che danno il senso di quanti poveri, neopoveri ci sono in Italia. Tant'è vero che l'Avvenire titola: povertà ancora più radicata, welfare inefficiente e lontano. Sono sempre 7 milioni e mezzo gli italiani indigenti, il 13% della popolazione complessiva, scrive l'Avvenire. Ma ben 900.000 famiglie vivono ormai con un reddito che supera solo di pochi euro la soglia critica. Questo scrive l'Avvenire. C'è Macioce che dice: sì, è vero, c'è la povertà, però bisogna stare attenti e guardare un po' meglio i dati. Il Giornale si dedica anche al dopo Maso e al caso Carretta. Ammazzò i genitori, ammazzo i genitori e mi danno l'eredità, di Michele Brambilla. Se non fosse una tragedia, anzi due tragedie, verrebbe da fare una battuta. E qui è Michele Brambilla a proposito del caso Carretta. Voglio rapidamente andare invece intanto il foglio. Per la seconda volta, flirta con D'Alema, perché c'è un servizio ancora molto simile a quello di ieri, il piano B ai confini dell'impero. Il Partito Democratico scopre che a D'Alema non c'è alternativa. A Napoli i cattolici sognano Max nuovo segretario. La Torre smentisce, il partito scende sotto il 30%. E solo Red dice: ci può salvare. Insomma, è già due giorni che il Foglio, insomma, in qualche modo ci spiega che, secondo gli umori del Partito Democratico, è D'Alema l'unica alternativa a Veltroni, ovviamente, in questo momento. Ed è invece l'Unità che prende per buona, senza critiche, la cifra Caritas: 15 milioni di poveri, rapporto shock, un italiano su quattro è considerato indigente, gli anziani i più a rischio, sempre più famiglie alle nostre mense, accuse al governo, ignora l'emergenza. E il Manifesto: faranno scuola, enfatizza molto non solo gli scioperi degli studenti e le occupazioni, come abbiamo sentito, delle GR delle principali università, ma anche enfatizza la notizia del razzismo in cattedra, cioè la scelta, che potrebbe, insomma, per adesso è solo, non è una legge, ma di separare i bambini extra comunitari dagli italiani in scuole separate. Infine il Riformista, che annuncia il direttore Antonio Polito: il nuovo Riformista sarà un giornale un po' più incazzato. Cioè, sì, Antonio Polito annuncia che da lunedì ci sarà una nuova versione del Riformista, molto più nutrito, con 16 pagine, e lui dice sarà un giornale anche molto più arrabbiato. E con questa segnalazione io vi saluto e vi do appuntamento a domattina.